ci ha amato. Da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siamo stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.